Spero che non abbiate niente in contrario. Se contrariamente al solito torno su un argomento di cui ci siamo già occupati soltanto un paio di settimane fa, ma dopo aver letto sul Corriere di mercoledì scorso la dichiarazione con cui l'ambasciatore egiziano all'ONU, tale Ahmad al-Burgait, commentava la rinuncia al flop europeo, no? Alle Nazioni Unite sulla moratoria delle esecuzioni capitali, proprio non riesco a farne a meno. Comunque non vi preoccupate, non intendo rovinarvi la domenica mattina parlando di pena di morte. È un argomento quello su cui da tempo ho rinunciato di discutere, e dopo aver verificato l'impossibilità di trovare un interlocutore che in difesa di quella barbara usanza potesse accampare degli argomenti sia pur vagamente razionali, e con gli anni mi sono reso conto che la difesa della pena capitale, come la portano avanti singole istituzioni, non ha niente di razionale. È la pura e semplice espressione delle pulsioni di morte che tutti nascondiamo a livello profondo. In altre parole mi sono convinto che i fautori della forca, della sedia elettrica, di quelle cose lì, e quando non si tratta di governi preoccupati soprattutto della propria autorità, sono soltanto dei poveri esseri umani a cui uccidere un altro essere umano in proprio per interposta persona alla fin fine piace moltissimo, e che cercano di ingannare il proprio superio, che potrebbe aver sviluppato in merito delle opinioni diverse, affermando di farlo per la giustizia. In definitiva, per usare un termine tecnico della sociologia, si tratta di una manica di bastardi cui non possiamo che augurare di farsi essi stessi quel male che godono nell'infliggere agli altri. Quanto al mancato voto sulla moratoria delle esecuzioni capitali all'ONU, non ho capito bene esattamente come sia andata la faccenda. Se non ho preso un abbaglio, direi che i paesi europei che avevano presentato la proposta l'hanno ritirata dopo aver verificato l'impossibilità di farla passare, a meno di accettare un paio di emendamenti dell'Egitto e di Singapore, mi sembra, che affermando il diritto dei singoli paesi di non accettare dalle Nazioni Unite ingerenze di nessun tipo, in pratica ne avrebbero vanificato gli effetti. È una scelta su cui si possono esprimere giudizi diversi, la si può vedere come un'inutile e astratta manifestazione di integralismo umanitario, o se si preferisce la sagace decisione di chi si è stancato di votare solennemente delle petizioni di principio che lasciano esattamente il tempo che trovano. Anche le petizioni di principio sono necessarie a volte, ma la storia dell'ONU ce ne ha inflitto tante da stomacarcene. Voi mi direte forse che anche il punto di vista dell'Egitto e di Singapore tutto sommato si può capire. La proposta di moratoria veniva da un gruppo di paesi occidentali. La vicenda del Kosovo ci ha insegnato che cosa ci si può aspettare dalle ingerenze dell'Occidente, anche se compiute in nome dei principi umanitari più nobili. Però ammetterete che fa un certo effetto leggere che l'ambasciatore egiziano, quello da cui siamo partiti, ha esaltato il risultato ottenuto, che è quello in pratica di non far passare moratoria di nessun tipo, per cui ogni paese potrà continuare a far fuori i propri devianti in piena serenità, e l'ha esaltato come una vittoria della civiltà e della tolleranza multiculturale. Per una società islamica come la nostra, ha detto, il rispetto delle differenze culturali è fondamentale. Ci siamo trovati contro una coalizione di paesi ricchi che cercavano di imporci i propri valori, come se in virtù del proprio benessere si sentissero legittimati a imporsi sui meno fortunati. Ora, io credo che si possa pacificamente convenire che i governanti della maggior parte dei paesi proponenti, se non tutti, meritino a pieno titolo l'inclusione nella categoria dei bastardi di cui prima, ma nessuno ignora che nel terzo mondo i paesi islamici, per non dire di quelli non islamici, del ricco occidente hanno tranquillamente assunto, quando ai loro governanti faceva comodo, valori e istituzioni a manetta, dal nazionalismo allo sfruttamento industriale, dal disprezzo per l'ambiente al prestito a interesse, che è una pratica che il Corano espressamente vieta, ma siccome prendere quel divieto sul serio renderebbe impraticabile l'intero sistema bancario, allora chi se ne frega. Invece quando si tratta del diritto ad accoppare liberamente i propri sudditi, quei devoti credenti non intendono accettare lezioni da nessuno. Sì, perché chi dicevo che è un argomento di cui ci siamo occupati da poco? Perché il problema è lo stesso di quello del Chador, di cui abbiamo parlato 2 settimane fa. È il problema di come reagire quando qualcuno avanza la pretesa, in nome della propria specificità culturale, di opprimere liberamente qualcun altro. Il fatto che non sia giusto bombardarlo, il che peraltro succede soltanto quando per bombardarlo ci sono altri motivi, non significa che bisogna aiutarlo a fare il comodo suo. E d'altronde tutto si tiene. Sulla stessa pagina di giornale che riportava le parole dell'ambasciatore egiziano si riferiva dell'avvenuta esecuzione in pubblico in Afghanistan della condanna a morte di una donna. Sembra che fosse la prima volta che succedeva. E per non turbare il vasto pubblico corso a godersi lo spettacolo, tanto la disgraziata che hanno ammazzato a colpi di Kalashnikov in uno stadio, quanto le due aguzzine che l'hanno trascinata in loco e messa in posizione, indossavano naturalmente la burqa, che è la versione afghana integrale del chador, e gli astanti comunque si sono divertiti lo stesso.